Luca. Gianni Giannini. Penso qua. Troppa potenza. Ecco qua. Asha va bene. Ehi, Asha, benissimo. Cazzo, la maestra. Va bene, ciao a tutti, Cook, buona serata, baci, abbracci e lodi e squisitezze, ciao. E ciao, grazie, ciao. Gianni Morandi. Ciao, Spagliero. Natalino Pasquetta. Ciao, Bucomane, ciao, ciao, ciao. Claudio Villa. Roberto Vialli. Ciao. E qua come è questo Luca Pruzzi che... Natalino! Natalino! Capolanno! Pollo! Ma cosa ci ha fatto? Spacciato! E no! Come muove la demo fatta! E beh, allora, che si dice? Luca, cosa andiamo a fare le commedie a Sassari se tu faresti quattro personaggi diversi? Esagerato! Però c'è fresco qua, ma questo tempo quando è che cambia? Fresco, non so come è della Luca, non lo so, però mi ho sistemato il coso della parabola, che ho fatto danno, ci mi stavo sciogliendo. Sì, oggi ha fatto caldo, io poco fa siamo usciti a portare i cani lì, giù in Piazza del Sole, si moria, troppo caldo, troppo proprio caldo, e poi lì in marzo, ancora peggio. No, sono qua in cameretta, c'è la finestra aperta e sta arieggiando, di brutto pure. Sei sempre a mare, sì. Sì, adesso guardi non andiamo a mare, domani come si è andato? Perciò quando è che sono andato a mare? Sì, io mi sto sorpreso perché mi sono andato a fotografiare lì al mare. Cazzo, ti hanno passato chi si è avvolto. Mi sa che tu qua è buio, e lei è luce da te. E dice, perché c'è la pila accesa. Domani fa più caldo di oggi. Comunque stamattina si è andata a fare un po' di lumache già, ho trovato un po' un bel po' di lumache, un bel po'. Una magnata, dai. Luca. Oh, Natali. Portati sul 20 un attimo. Eia. Vabbè, dopo rispondere a Gianfranco, se volete faccio rispondere alla domanda di Gianfranco. Vai, vai. Sto facendo roba. Allora Gianfranco, mi hai chiesto tu il discorso dei Longheroni, così ti confermi. Gianfranco, tu sei allontanato forse. Tu già lo volete abbassare però un peluzzino poco poco, oppure allontanate un po' di più dal microfono, sono ben alto. Ebbene, non metti nessuno, tutti morti. Ma a me piace. Ma è cambiato radio adesso qua. Sì, prova cavando col 757, sto andando col K. Infatti si sente, ma anche più segnale, prova a parlare. Vabbè, segnale, questa è una fregua. Comunque gli va bene, non c'è problema. Cosa è, modello 1 o modello 2 questo? Questo è modello 1. Una bizza è questo qua. Questo... Già lo sai chi l'ha messo a mano, non c'è niente da fare, no? Quando tocca lui le cose vanno sempre bene, su questo non ci piove, non ci pioverà mai. Questa è la numero uno di numero e numero uno di qualità parliamo. Lo so, questa cosa è santa, è una bella bestiolina, è sempre andata bene, c'era quel problema del filtro, ma già lo sai che... Chi gliel'ha messo e chi l'ha sistemata, adesso è nuova, come Dio comanda. Dai, vi lascio comunque, un abbraccio a tutti e buona serata, ciao ciao. E a te la passa quando vuoi comunque, già lo sai dove sto. Ok, ho chiamato Gianfranco, forse si è allontanato. Gianfranco, ti sei accorto? Luca e cosa sono spostati sul 20, e Gianni non so cosa sta facendo, vediamo se c'è qualche donato che vuole entrare nel frattempo. Non so se questa radio ha pigliato lungato, lo freddo, comunque c'ha dei picchi di modulazione che non me li dava mai. Infatti c'era una radio strepitosa, molto più alta, molto più forte, molto più bella. Ma non c'è, non lo so, in questi giorni per me avete detto che sta spingendo di più, io ho una radio toccato sempre a uno, addirittura è meno di uno. Cioè da dire che sono un po' più in alto di altezza, ci ho guadagnato 20 cm perché ho messo una sedia più alta, girevole, che ero incasciato con l'altra. Però no. I picchi di modulazione sono allucinanti, non ce l'aveva mai questa radio. E anche questa quando è stata fatta quella revisione con la persona là. Le picchi allucinanti, io ho 20 watt di portante, me ne spinge 50, buoni buoni. Va bene, dai, vi saluto, ciao ciao, mi metto a fare qualche cosetta, anzi adesso vado ad attaccare i rigatori così mi innaffio i tra. siamo a Tumorace, c'è la partita stasera, ciao. E oggi è bella, vabbè bella, domani è bella, Real Madrid Inter domani è ancora più bella, oggi c'è Juve Malmo, però giocherà col dente avvelenato la Juve, dopo quello che è successo. Comunque, ci guardiamo entrambi, di nuovo, vediamo se c'è qualcuno, avanti su 10. Se c'è la Juve stasera perde con questa squadretta del cacchio, Allegri sotto la panchina, è già ufficializzato. Sì, è Gappigliani, lascia perdere. Tanto cosa Allegri? Ti sto dicendo che è ufficializzato, vabbè, quindi se perde oggi in Champion, Allegri salta la panchina. Lo sto dicendo, è già ufficializzato, l'hanno fatto vedere a Sky TV, a Sky Sport, a Sport Italia, l'hanno già, è già tutto pronto. Hai visto in un paio d'ore cosa è successo a Cagliari? Saltato, semplici, arriva di nuovo Maran. Come la Maran? Se siete venuti a coso, ma c'è già Maran ieri. Stavamo parlando di Maran, non so se hanno di nuovo cambiato idea. Non lo so. Sappi che comunque c'è un qui qua con Conte, stai attento, che sarà una sorpresa, ma se va via Allegri ritorna Conte alla Juventus, lo sto dicendo. Ma guarda, per quanto voglio bene alla Juventus, meglio che non ci torni, anche non lo posso vedere, è un presuntuoso, uno spaccone, lui va solo dove c'è la squadra forte, vai a allenare squadrette piccole, Cagliari, il Verona, lì si vede quando sei un allenatore bravo, non allenare la Juve, l'Inter e il Milan dove ci sono i campioni, la Sabelli, non mi è mai piaciuto come personaggio a me, e l'ha dimostrato che personaggio è, che a nulla duduto quando la Napoli stava affondando l'Inter. Vabbè, siamo bei, il coso ha mandato via Di Francesco, il Verona, tre giornate già fuori, non so che abbiano preso, però è ufficiale quello. Di Francesco, stanno già saltando le panchine, non c'è niente da fare, stanno già saltando, è saltato il Verona, è saltato il Cagliari, e dice quel giorno la prossima la Juventus, non ne frega niente, non ne frega niente, capito? Non sta andando bene, cioè non si può iniziare un campionato a tre partite, c'è cioè un punto c'è la Juve, mi dai, io finiamola, per favore. Schumper, sul Conte, ne puoi dire tutto quello che vuoi, per me è uno dei migliori allenatori d'Italia, non c'è niente da fare, in Italia e all'estero, quindi vabbè, dai, ti lascio Roberto. Ci sentiamo che ce l'ho a fare. Ciao a tutti, buona serata, arrivederci e buon viaggio. Ciao ciao. Sì, vediamo se è rientrato Gianfranco. Gianfranco sì. Sì, chi sei? Nicola. Nicola, sei Santiago Otto, però la radio come al solito è bassina. E purtroppo se non fai qualche miglioramento ti tiro fuori con le pinze. Cosa hai detto Nicola? Se conosco? Lo stai dicendo come battuta o lo stai dicendo seriamente? Ma non per farmi pubblicità, io faccio quel lavoro lì, però lo lascio dire agli altri. Diciamo la seconda generazione che lavoriamo, non ti dico altro, poi chiedi se c'è qualcuno, c'ha il mio numero, ti fai dire dove sto, con chi conosci tu, a Claudio, il numero di Claudio, di Gianni, Natalino, chiedi a qualcuno di loro, c'hanno il mio numero, eventualmente ti fai spiegare dove sto, se vuoi un preventivo te lo faccio quando vuoi, senza impegno, e ti tiro fuori male, non capisco cosa hai detto, e chiedi se chi ce l'ha di quelli che conosci, chiedi a qualcuno, gli dici dove sono, ti avvicini, non hai il lavoro e mi trovi quando vuoi. Sì, chiama Gianni, gli dici Gianni dove sta Roberto e lui ti dirà, è passato anche lui l'altro giorno da me in officina per un preventivo, chiedili dove sto e poi così era l'occasione per conoscerci di persona, dai, ci facciamo due chiacchiere pure. Adesso se Santiago nome ti ascolto molto meglio di prima, la radio quasi 5, purtroppo ti ripeto, se fosse un po' più alta con la radio andreste alla grande. Lupo Roma, Lupo Grigio, mi ascolti? Aspetta, tanto Gianni che ti sta salutando, avanti Gianni per Nicola. Ehi, Nicola, ciao, buonasera, ben sentito dopo tanto. Nicola, io ho preso il tuo numero, quindi non ti posso chiamare, abbi pazienza, però ho cambiato il telefono, ho preso il tuo numero e non ce l'ho più, quindi non ti posso chiamare. No, no, io ce l'ho sempre lo stesso. Mandamelo il numero così almeno poi me lo registro. Ehi, Nicola, dai, ti saluto anche io, chiama il telefono, non c'è problema. Perché mi ha chiesto se conoscevo un carrozzere già. Ah, te l'ha chiesto. Come? L'ha chiesto a te? Io pensavo se fosse una battuta, no, seriamente, dove va? Io ho quel lavoro, non mi piace vantarmi, chiedi a qualcuno se c'ha il mio numero o ti fai spiegare, beh, tu c'ho il numero di Gianni, spiegali dove sto, così si avvicina e gli faccio eventualmente un preventivo, così lo conosco e lo saluto pure l'occasione a Nicola. Non ho capito Nicola, no, Gommissano, non c'entra niente. Ok, e comunque se chiami a Gianni, se te lo vuoi dare la mia indicazione, strada ne dovetto te lo darà, penso di sì, poi invece. Non c'è problema, non posso anche accompagnare, non c'è problema. Non lo faccio a trovare, non c'è problema anche a quello di lui, se vuoi venire anche tu già non c'è problema, non ci sono problemi. Vediamo se è rientrato Gianfranco, Gianfranco sì, Natalino si era spostato con Luca, vediamo se è rientrato Luca, idem, vediamo se c'è qualche altro, se non riprendi tu Nico. Però ti sento, a momenti 7, 8 e 9, poi scendi di nuovo a 8, poi a 9. Non so se ti stai muovendo, stai cambiando direzione dell'antenna, Nico. Adesso vediamo se è rientrato coso. Nico, veicola. Natalina, avanti Natalina. Sto facendo cosa? Un attimo. Già vi sto ascoltando. Allora, riprendi tu Nico. Mi ascolti bene a me Nico o hai difficoltà? Non lo sento più io. Nico ci sei? Tu lo senti già? Io forse è andato a chiamare a Gianni al telefono. Vediamo se Gianfranco è rientrato. Oggi c'era qualcuno più del solito, mi pare però sono tutti fuggiti. Ora. Sezione 10, chi c'è? Batta un colpo. Il colpo l'ho sentito, ma pure un nome voglio comprendere chi è. Eventuali ascoltoni sono pregati di ascoltare e se ne hanno voglia di entrare. Ora, ora. Chi è arrivato qua su 10? Chi è arrivato che vuole entrare? Io rimango qua con Rix, vediamo se qualcuno vuole entrare. Io qua sono sul canale 10. Che è avanti con entrare? Ah, quindi c'è l'orecchio di porco tu. E beh, cosa stai combinando? entrato. Prova a parlare. Sì, è migliore, però adesso ti sono abbassato il radio, ma è un microfono da parlo o da tavolo? Stiamo uscendo tipo tipo parnacchia in certi momenti, non so se c'è problemi di qualcosa, perché si sente tipo parnacchia. A me sto aspettando che mi fai sentire la grande, quello sono curioso. Sinceramente non me lo ricordo, quando l'avevi presa all'inizio c'avevi come ricevitore e mi ha detto no, non tocco niente, mi ha detto di non toccarla eccetera, poi se l'abbiamo sentita in altre occasioni non mi ha detto niente, che mi ricordi io o no? Comunque questa è della stessa famiglia del Mille. Codice 1021, così? Sto cercandola, ma sei sicuro che si chiama 1021? Caccia, aspetta, perché ne esistono un sacco di tipi di questo, c'ha due display? Allora, vista, è bella grossa, c'ha un bel, una bella radio, dai, complimenti. È più grande del 1000 questa. Nicola questa. Ah, lui te l'ha venduta da tramite Nicola, non era la sua personale, no? Una domanda, ma il 21 è più nuovo del 1000? Il 1021 com'è età di costruzione? È più nuovo o più vecchio del 1000? Quello che voglio dire, può arrivare a piena potenza o è limitata? Per dire, ci sono degli apparati di un certo tipo, per dire, in banda laterale ti tirano 100 watt e in AM ti danno 25 watt, di quel genere lì o anche 27 ti dà piena potenza? Effettivamente è una bella radio, non lo conosco, non l'ho mai vista, solo in fotografia l'ho vista, però è una bella radio. Thank you. vabbè, naturalmente. E come dimensioni è più grande del 1000? Abbiamo due pesanti. Ma non mi ricordo sinceramente, qua sì che ero un po' distratto, magari mi ha detto mi senti, però il codice del modello non me lo ricordo. Dimmi un po', è quel Sommercamp che a me mi piaceva tantissimo, ce l'hai ancora quello che uscivi benissimo, ti ho detto là c'è la più bella radio che hai. Sentire, quanti canali hai insomma accanto? Allora fammelo sentire che sono una volta. Sì, ci sono qua. Io sono qua. Vediamo se nel frattempo c'è qualcuno che ha desiderio di parlare su canale 10. Avanti su 10. Ora. Avanti, chi vuole entrare? Ciao Robbe, buonasera. Sì, ciao, qui sto aspettando a Chiodo Ruginizio, che sta provando una radio vecchia che a me mi piaceva un sacco come modulazione. Vediamo se è ancora viva, che ce l'ha spenta da poco, da un sacco di tempo. Cappa. Vabbè, io sono appena arrivato, sono. Mi sto togliendo ogni, appena c'è il giubbotto. Cazzo, c'è un caldo, mamma mia. Già lo so, anche domani e dopo a punta di 32 ci sono all'ombra, per cui a Ciassoli domani ci sarà un po' di calduccio. Me lo scende giù a Platamona, dice che è bello il mare. Guarda, io non sono sceso perché domenica stavo preparando, che ieri al compleanno abbiamo fatto, preparato in casa e tutto, e mi hanno detto, mi hanno fatto vedere un video, c'era il mare, era un lago pulita, limpida, era una cosa unica. Cazzo. Quella è per me una risorsa che c'è, ce la dobbiamo tenere cara. Che andendo per accesa. È una risorsa che ce la dobbiamo tenere cara, quella. Già lo grido, con quello stai andando adesso? Col grande. No. Perché? No, stavo dicendo perché ogni tanto cambi il radio, c'avevi l'altro giorno con l'altra più grossa, quella che spinge di più. Questa è. No, non stiamo parlando del scappa, parlo dell'altra. Quella marabatta a caldo. È quella che c'ha il coso. E lo scaldino, dai. Abbiamo sudato, dai. Ma vado a fare la pizza. Comunque Robè. No. Adesso scendo, sa. Comunque Robè, cioè, dobbiamo tenercelo caro il nostro mare, perché fa invidia, anche Platamona fa il suo fascino quando è più bello, limpido. Io ci sono andato un paio di volte che era incantevole. Io Platamona non ha niente a invidiare ad altri mari molto più famosi. La gente è fissata ad andare al Ghero, andare a Ghigio, a Mugugna, a Tamone è un signor mare, perché poi l'acqua c'ha un bel ricambio, se per dire te vai all'Alghero è un po' chiuso come mare, e l'acqua è sempre liscia, infatti sono tutte quelle alghe quando capita un fiago, meno male che già le puliscono, ma se tu vai lì dove Alghero l'acqua è sempre quasi stagnante, perché non è il fondale, non è alto, chiusa, e se tu vai a Patano invece l'acqua è pulita. Gaffa, no, io ci sono andato molte volte quest'anno, però ci sono andato anche in certi periodi dove l'acqua era, ma manca la marina di sorso, cavolo, uno spettacolo proprio. E cosa mangio di vado? 30 chilometri, ma fa cosa? Vai, che qua, altro ganghero, lascia perdere. Luia, sono fissati, sono a ghi, ma vai ammazzati, dove la rida? Cioè, niente da dire, cose, però qua c'è il suo fascino, cioè, guarda quanto è bello anche salendo dalla marina qua, pura Bussudorra, nella spiaggetta che c'è. Ci sono giorni che è incantevole. Sì, sì, chiaramente d'accordo. Vediamo se ne è entrato Claudio De Muro. Sono avanti, Claudio. Scappa, dai, io vado giù che devo mangiare. Ci sentiamo. Sì, buonasera, anche io tra poco vado, dai. Avanti, Muro, se ci sei. Comunque, sono qua in ascolto, se vuole entrare qualcuno. Sì, avanti. Scappa, vabbè, questo che è il Sommercamp PS660S, com'è? È una bomba, spinge un bel, la roccia è bella chiara. Gaffa, adesso sono a 30 metri che adesso provo a andare, vabbè, un attimo, è uno di conosco, è quasi uno, con l'MP più 5, adesso provo a sollevare il Mackie King, adesso l'ho portato a 6, e sono anche distanziato parecchio dal microfono, adesso lo porto a 7, così sono a 7, 1, 2, 3 provo a radio, con un'ottantina di parte sto spingendo, poi così lo porto a 8, e siamo a 8 sempre con il tono a 1, così a 9 e così a 10, okay. Adesso lo ripeto a 3, ok, sono tornato a 3, 1, 2, 3, 4, 5, provo a radio, com'era quella modulazione? Bellissima, forte e chiara, no, non salire, oltre 3 non salire. Vediamo il tunnel, a quanto ce l'hai il tunnel? Li ho messi a 1 con Mike Green a 3, okay. Provo a sollevarli a 2, vedere. No, fai un passaggio, metti, se non ce ne accorgiamo, metti uno e poi lo metti al massimo. Gaffa, allora, il Mackie King è sempre a 3, i toni sono a 1, allora, adesso li porto a 2, così è a 1, e così è a 2, robe, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, com'è? No, così non riesco a percepirla, ti sto solo ascoltando, non ti sto vedendo, analizzatore, voglio sentirti proprio con le orecchie, come si dice. Mettimi in posizione 1 e poi metti al massimo i toni, vogliamo notare la differenza. Gaffa, in posizione 1, vabbè, allora sempre con me che è da 3, allora in posizione 1 la manopola del tono, adesso la porto a manetta, così è a manetta, vabbè, 1, 2, 3, prova radio, come? Ah no, no, non va bene, mettilo a metà. Gaffa, così sono a 5, vabbè, 1, 2, 3, prova radio, come? Niente, toglili del tutto, chiudili completamente. Così sono chiusi completamente, vabbè, 1, 2, 3, prova radio, come? Adesso stai rimbombando, ma ti sei avvicinato al microfono. Negativo, no, vabbè, l'ho un po' coso, magari come ti stavo portando con la sedia, no, sono distanziato parecchio dal microfono, non so se ha migliorato qualcosina, perché sono ancora distanziato, ecco, mi sono distanziato, riprendi? No, no, no, te lo salvo, mettiti sempre in direzione del microfono, sono i coso, i dati che ti do, le indicazioni non hanno senso. Scusa, mi sta chiamando tu col telefono, scusa un attimo. Gaffa, fai pure, vabbè, rimango qui in quell'inizio, intanto se c'è qualcuno che vuole entrare, qui sono 10 e sempre il benvenuto, io rimango in quell'inizio. Buonasera, chi sei Antonio? Mirko di Alghero, così è detto. Gaffa, questo è le Mirko, sì, ti ricevo in mezzo a QRM, Santiago 4, il tuo segnale, Radio 4, lo sei molto, molto forte, qui è Chioda Ruginito, operatore Claudio, dal QPH di Muros, Mirko, sì. Modulando da Muros, sì, con un Sommercamp PS660S, 80 watt di potenza, ZGMP più 5 di microfono e antenna 5 ottavi d'onda verticale della Sirio, queste sono le mie condizioni di lavoro, Mirko, a te ancora. Ho rientrato con qualcosa. Riuscito a copiarti perfettamente perché ti radio proprio via 24, non sei molto forte, sei un po' incomprensibile, però 9 arriva Radio 5. E tu, scusa un attimo Mirko, il tuo da quando ce li hai Claudio? A zero completamente, Robe, come mi hai detto tu, e mai ti rendi questa cosa è del MVP 5 e a coso, a zero, se non aumento di più, capito, hai, è diventato una più forte, capito, sono a tre come ti rendi, lo posso anche abbassare se è troppo eccessivo, dimmi tu. Aspetta, abbassalo un peluzzino e prova a parlare. Così mi sono portato a 2,5, Robe, a 2,5, com'è? Sì, metti i toni a 1 come ce l'avevi prima. Ho messo i toni a 1 adesso, com'è la modulazione? Sì, è migliorata tantissimo, ma ti sei spostato dalla direzione del microfono? Negativo, no, ho passato solo il metti in a 3, Robe, va a 3, come hai detto, scusa, 2, quindi. Rimettilo a 3? Così, è a 3, Robe, 1, 2, 3, prova radio, com'è? Allora, devi mettere un pochettino più basso di 3, se non alzi la voce va bene anche 3, però se alzi un leggero, leggermente troppo saturazione, un leggero strappo, prova a 2. Così che a 2, 2,5 fai, come adesso? Però non ti devi spostare dalla direzione del microfono, perché io noto, o ti allontani o ti avvicini, ti abbassi di colpo, cioè da 2 a 3 non è possibile che scenda così di colpo, poi di momenti come ti avvicini si rialza, fai un passaggio normale. K, 1, 2, 3, pro radio, sono nella posizione che ero prima adesso, cioè come rispetto a prima? Mettila a 3. K, così a 3, 1, 2, 3, prova, com'è? Cacchio quanto sale, da 2 a 3 c'è un guadagno di coso, di 4 dB, sono tantissimi, mettilo tra il 2 e il 3. Caparo, beh, così è, tra il 2 e il 3, capito, hai un mezzo, praticamente 3 e mezzo fai, come hai detto tu, no? Cioè 3 e mezzo, 2 e mezzo, 3, pratica, come mi hai detto tu. Abbassa un peluzzino poco poco. Ho abbassato poco poco, è quasi a 2 completo, proprio, beh, non è neanche a 2 e mezzo, com'è? Guarda, se non lo tocchi sei perfetto, cioè proprio il limite giusto giusto, ti ho messo al limite proprio della, del picco, dai, del tipo, il picco della distorsione, va benissimo, la tonalità è ottima, perché se metti il 0 ti sporca, e se alzi l'1 oltre l'1 ti sporca, l'1 è il compromesso migliore. Sì, lo so, beh, questa radio mi ha numerato diverse registrazioni, è una bomba, mi sono ascoltato anche in propagazione, una bomba proprio, peccato che non c'ha le FM, le bande laterali, questa radio, però è solo AM, per essere che solo a pietra modulata spinge, spinge parecchio, perché quando l'ho svoltata dentro a vedere com'era messa, c'è un modulatore gigantesco, dunque, qua non c'ho nessuna radio qua di quelle che c'ho che abbia un modulatore così grande, ed è fatta così di fabbrica e non è né modificata e niente, capito, e la uso anche sul 45 a parlare questa, perché c'è anche il 45 e ci metto il microfono con l'eco, quello della Intec, gli ho binato, ma non sai come spingere, guarda, è una cosa, guarda, mi piace molto che di modulazione, perché me lo dicono tutti, però di estetica non è che mi piaccia molto, preferisco più i valvolari ovviamente, per modulare quindi sui 23 canali, modulo con il contact, con il phone 23 canali, l'innoit, tutto il Midland 574, sempre da stazione a fase, e poi ne ho anche da barra mobile, ma li uso poco, quindi come questo qua ad esempio, e niente, Robe, da, facciamo riprendere a Mirko, a vedere se c'è ancora, riprendi Mirko. Appena appena le voci, oppure devi abbassarti appena appena il microfono, Claudio, perché così stai un po' distorcendo. Mi sono spostato con la sedia, perché c'ho quella sedia che mi era più quella di Remore, capito? E che c'ho subito di dondolarmi, capito? Capito, adesso mi sono messo come ero prima, e sempre che non è distorta la voce, e niente, la riprendi. Così è perfetta, benissimo, se rimani in questa posizione il livello è perfetto. Vediamo Mirko se mi ascolta a me. Mirko, tu sei Santiago 9 Radio 5, avanti per il cambio del rapporto. Va benissimo, dai, vediamo se c'è qualcuno qua su 10, perché c'è un sacco di gente, stasera poi sono scomparsi tutti. Vediamo 10, avanti chi vuole entrare. Ok, avanti se vuoi entrare. Tu, riprendi tu Claudio. Questo è il segnale a Santiago 9, c'è un sacco di gente che ascolta, purtroppo, o ha vergogna, non lo so. Io quando ti sto arrivando di lì da quelle parti, e Claudio? Sempre 9.25, quasi 9.30, ma ovviamente puoi spingere anche di più, perché non ti ho solo un bel capito, prima ci stiamo ascoltando a Claudio, a Palmiero, quando ero con i Conta, dove stiamo arrivando 9.35, 9.40 a fondo scala, proprio lui da un che mi arriva a forte lui, è quello di Ossio, come si chiama, Uranio, mi arrivano forte, capito, mi arriva forte anche tu, Robe, poi mi arriva forte Pomponio, mi arriva molto forte anche lui, Pomponio mi arriva a fondo scala, perché è sopra scala di gioco, lui vicino, e mi arrivate tutti forte, mi arrivate rispetto a quelli che abitano nella zona, come si dice, del monte, di Latte Dolce, però mi ascolto tutti bene, dai, prendi. Sì, sì, anche tu sei quasi 9.20, perfetta, la modulazione è bella, pulita, come piace a me. Ok, lasciamo un attimo di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare avanti sul canale 10. Ehi, vabbè! E Antonio, dai, e Antonio quando ti arriva, Claudio? Buonasera, popolo, riprendi, ti chiedo il segnale, avanti. Gabba, buonasera, bocca potenza, com'è? Gabba, allora, questa radio sei Santiago 7.5, 7, usando una radio diversa, un Somercamp, sì, 7.5, non so se a quante quanti stai andando, però magari se sono lì di più mi arrischi anche di più, riprendi. Dieci watt, c'ho, 10 watt, sto aspettando un po'. Sì, già va bene, allora, 7.5, il tuo segnale è Radio 5, c'è anche Mirko, faccio venire avanti subito, riprendi, Mirko, a te il microfono. Mirko, ci sei? Sì, sì, no, no, sto bene, allora vediamo, c'era anche qualche donato, ho visto che forse non riesce a parlare, avanti chi vuole entrare? Andiamo a tu. Gappa! Ehi, altro come della partita, adesso Juventino, Interista o Milanista? No, nessuno. Ma un guardo. Ora, hai avrebbe a canne. Adesso sicuramente Claudio Di Muro se ti ascolta molto più forte. Sì, sì, confermo. Santiago 9, Gappa, bisogna aspettare un pochino, dai, che ancora è freddo. A te quando ti arriva Claudio Antu? 8. A voglia, tu sei quasi 9.20, radio super 5 stereo, per cui una volta che c'è la radio 5, anche se c'è un segnale di 8, va più che bene, non c'è problema, ti ascoltiamo tutti perfettamente, anche Alghero, nonostante la posizione ti ascolta bene. Di nuovo a te Mirko il mic. Ne MB tanti di microfoni, non c'è un amplificato, dico, di quelli semplici, puoi prendere un MB più 5 così magari c'è anche il controllo di tono e riesci anche a me. Claudio sta usando così, non non troppo costoso, ma qualità prezzo va più che bene, o se no se riesci a buscarti un Tanner e fai un turn all'osso, perché il Tanner spinge parecchio e come sollevi non dissocia, come per dire, può dissociare un MP più 5 o più 4. Di nuovo a te il mic e Mirko. Gappa, io devo lasciarlo un attimino, Gappa, ci sentiamo. Ehi, perciò avessi già mangiato tanto. Mi hai copiato Mirko? Già semplice fare le connessioni in quei tipi di apparato, se fosse magari un HF devi stare attento perché c'è l'alimentazione dell'apparato che è un po' critica la situazione se non sei pratico, mentre quei baracchini hai tu la corrente, per cui l'alimentazione è Claudio Ramudos. Sì, come zona, però riesco a tirarlo fuori. dico a Claudio. No, ha detto quello che ti ho detto io, ha ripetuto quello che ho detto io. Se riesci a metterti un bel microfono un po' più amplificato, magari sollevi appena appena la modulazione e riesci a superare il QRM, perché lui ti ascolta a Santiago 4, però la radio purtroppo è molto bassa, quasi a livello di QRM. Ma non date un controllo adesso? E che hai mangiato? Scappa, no, a Muros, com'è a Muros? Ora! Che avanti? Scappa! Ora! Ora! Cazzo di aula! C'era qualcuno che voleva entrare, avanti chi voleva entrare? Campo, la bianco per me che è pronto a mangiare. Eia, chi è che vuole entrare? Mi sentite? Cristian K2. Ti ascolto perfettamente Cristian, dove sei? In che zona sei? Sempre qui a Lugulentu, ho ripiazzato l'antenna. No, volevo un'informazione, perché ho piazzato l'antenna sul tetto ma non sento, ma non trasmetto. Qua sei l'OV5, anche se c'hai quel CB. No, vabbè, adesso sono in macchina, Ah, a me come mi ascolti? La radio è buona, il segnale non riesco a vederlo perché ce l'ho sotto al sedile. Ah, no, quello di radio, il segnale è relativo, No, no, la radio è buona, perfetta. Ma anche a casa mi arrivi forte, Soltanto che io adesso stavo provando il canale 30 con mio figlio, ma non mi ascolta, io non sento a lui. Ti sei abbassato a 7 adesso di segnale. Sei in compagnia mia, Mirko Dalghero, che non so se riesci a tirarlo fuori perché è un po' situazione precaria. E poi c'è Claudio da Muros. Vediamo se Muros ti ha ascoltato. Avanti per Cristian, Muros. Sì, per girare la VDVD. Qui a 9 in questo passaggio. Ma tu abiti vicino a Danilo per caso? A Danilo no. No, io sono Lugulentu proprio. Ah, allora sei verso Tonino tu. Tonino mi sa che abita vicino a San Camillo, può essere. No, Tonino è a Lugulentu. San Camillo lei, verso San Camillo. Sì, sì, no, io sono un po' prima, una strada prima. Adesso 9 più 10 sei arrivato, come stai salendo ti sto ascoltando ancora più forte. Brecco. Avanti il brecco. Ciao carissimo, Lubrofetta qua, coordinate, stasera di vecchio. Che è appena di senza attendite, a te beh, Gianni, tutto a posto. Beh, una parola, dai, lasciamo perdere. Ho acceso adesso, va. C'è in compagnia mia, c'è Muros, Claudio da Muros, c'è Cristian che si sta recando, penso, verso casa sua, c'è una di Lugulentu e poi c'è Mirko da, come si chiama, Dalghero. Ti rilancio a Mirko che è più lontano, vediamo se Mirko ti ha ascoltato. Gianni da Sassari, ti lancio il mic, Mirko. Hai sentito già? Pio Pio, Santiago 1, oscillante 2, proprio sento borbottio ma non riesco a capire. Comunque salutalo da parte mia, fagli la ponte, dai. Ti ho ascoltato comunque, vediamo se Cristian invece si ci ascolta ancora. Avanti Cristian. Sì, sì, vi ascolto, vi sento. Ciao, mi sembra Antonio. Lui arriva fortissimo qua. Comunque no, sto scendendo verso il mare adesso, verso giù. Ah, quindi sta andando verso il mare. Eccola, allora quella che si è abbassata. Non è Antonio, è Coso, prima era Antonio. Gianni Lubrofetta. No, ma se è quello di Alghero io non lo sento, io sento quello di Sassari Vecchio, arriva fortissimo. Sì, vediamo se Muros ha ascoltato a Coso, a... poi si chiama Gianni Lubrofetta, penso di sì, a Vulle. Sì, sì, questo è il Roberto, come no, certo che l'ascolto. Santiago 6, Radio 5, buonasera Gianni, ben sentito dopo tanto tempo, cordialità anche a te, riprendi. Reia, reca cambio tutto al 100%, qua il report è Santiago 7, la radio un po' bassina rispetto alle ultime volte che ti ho sentito. Comunque saluto da tutta la ruota, dai. Vai Robè, come direttore d'orchestra. Sì, grazie per l'incarico. Ok, no, Gianni è una delle più forti radio qua, l'ho sempre detto, bella, chiara, pulita, considerando che rispetto a me è proprio la parte opposta della città, e c'è che è una meraviglia. Muros da parte mia sta arrivando benissimo, forse per te meno favorevole, gli ho detto sempre questa è la più bella radio che c'ha. Mirko lo ascolto quasi 9, l'unico problema è che è basso di radio, e Cristian lo mandiamo di nuovo avanti, vediamo dove è arrivato, se ci ascolta. Avanti Cristian. Sì, io vi sento sempre, sono giù dopo il bug della fiella, a voglia. Ma stai uscendo liscio o hai aiutato tu Cristian? Vi hanno sovramodulato, no, sto uscendo liscio. Santiago 7 oscillante a 8 comunque, qua è il tuo rapporto. Vediamo di nuovo Claudio Lamuro, svolta il mic. Io ti ascolto bene Claudio, ti sento. Vabbè, io sono in macchina, sicuramente è quello. Sì, io adesso ti ho ascoltato, da, ne approfitto anche per salutarmi che devo andare a fare carico batteria, da. Saluto a te, a Gianni Profeta, a Roberto Quadrato e tutti gli eventuali amici in ascolto. Io sono passo in cuore di SK che devo andare a fare carico batteria. Ciao a tutti, alle prossimine, riprendi Roberto. Ciao, saluto anche a Cappadum, Te l'ho sentito meno, sono giù che stavo mangiando, non ho vinto, ma è vero, te l'ho salutato, mi saluta a tutti, ciao ciao Profeta, buonasera. E che farà girare per Mirko e per, come si chiama, per Cristian. Cappa, ci siamo sovramodulati, Robè. Ah, sì, non farlo più. Allora, detto, salutiamo a cosa, Claudio, avanti, come si chiama, Gianni, poi di nuovo Antonio, Mirko e Cristian. Eia, ciao Claudio, buona carica, dai. Ho acceso all'improvviso, da un po' di tempo non scendevo la baracca qua. Salutori, buona carica, e 7-3, dai, ci sentiamo e ci aggiorniamo alle migliori condizioni e niente, dai. Ciao Antonio. E niente, dai, rilancio la palla a Roberto. L'amico in barra mobile è Cristian, ok, saluto neanche a lui, dai. Riprendi Robè. Adesso facciamo salutare a Cristian e a Mirko e Claudio. Vai Cristian. Claudio, ce la riascoltiamo. C'era qualcuno che mi stava salutando, però erano sovramodulati comunque. Sì, ti ha salutato Claudio Lamuro. Vai Mirko, per te, per i saluti a Claudio. Ok, Claudio, ciao Cristian! Questo mi immaginavi come Ruggeri. Ho capito di te però. Ehi, ciao amico. Chi è Ruggerio? Tu sei? Chi è che ha salutato? Avanti. O Danilo era. Chi è che ha salutato a Cristian? Non lo so. Ok, altro riprendi tu. Chi è che ha detto ciao Cristian? Ma è Ruggerio del Porto Torre. Vai Gianni. Cappa, mi stavo mangiando, sapo. Continuate voi, dai. Ehi, vai Gianni. Sono brutto, eh. Oi. Mi è sembrato Eugenio, dai, comunque. Magari mi sbaglierò. Buona carica tu. Avanti che ha salutato prima, avanti. Danilo, potrebbe essere anche Danilo. Fai la 9 più 10 il segnale, più o meno il segnale di Danilo. Ora. E cosa stai combinando di bello tu, Gianni? No comment. Eh? Ho detto no comment. Cos'hai toccato? Ti sento basso. Sono da parecchio che non uso il microfono, quindi magari un po' di polvere. Si è abbassato, però il PTT non era ben commutato, si è sentito basso di colpo. Ok, no, dico niente, lavorativo, nulla. No comment. Non lo so, purtroppo non è semplice. Mi sento uno basso in lontananza che sta parlando, non so chi sia. Eccomi, sono ritornato. Adesso ho la massima potenza. Com'è? Tanto sempre 9.30 qua, non è che cambia più di tanto. Ehi, a K, 35 modulati. dillo se ti prende bene a cosa Gianni, probabilmente lui è quello che ti è più lontano che riesce a riceverti. Ma va tutto incollato. Tu disfacci tutto quanto il baracchino con quel cacchio di... siete talmente vicini, così quando c'era Claudio qua vicino, se spingeva un po' mi saturava l'apparato. Perché forte mi senti già? Guarda, io c'ho il limitatore nello smitter, quindi niente, non ti preoccupare. Quando parli tu, Antu, Gianni, se ne andano nel canale 40, ti devi mettere l'attenuatore, se no cacchio, non ti riesci a sentire. Beh, me lo immagino, minimo, è tutto sparato. Disegate il limite dello strumento, 9,60, tu arrivi 9,90. Ma ti rammenti là di chi ti sei imbocciato? Che eri qua, con una cosa che ti saturava tutto. Io? Sì. Cacchio, l'ho visto una casa duia. Eri col portatile a 3 metri da me, già lo grido. Sapevi 96 dB di segnale, vabbè, riattacca da me. Non avevo mai ricevuto un segnale così forte, così vicino. E avanti, chissà qualcosa. Eri pochi metri per quello, cacchio, poi con la radiolina è bella perché ti dà un bel segnale di BM, ti dà proprio preciso, come dica preciso, dai, relativamente preciso considerando il costo dell'apparato. Vediamo Mirko se c'è ancora. Facciamo il come sentito, dai, anche io adesso interrompo le trasmissioni, ti saluto, saluto Antonio, un amico carissimo, l'amico Gianni Rubroffetta e poi eventuali tuoi amici, non so se c'è ancora Cristian, vediamo se Cristian c'è ancora, avanti Cristian. Sì, sì, ci sono, sono qua, non so se mi ascoltate voi. Sì, Santiago 78, tu mi ascolti a me? Sì, sempre liscio, va bene. Ecco, io vabbè, non voglio farti perdere tempo, ma mi serviva un consiglio per quell'antenna che ho piantato, perché non riesco a trasmettere, cosa può essere? L'antenna che hai piantato dove? L'ho piantata sul tetto, è un arringo. E me che problema ti dà? Io a voi vi ascolto, però adesso stavo provando con mio figlio su un altro canale e lui non mi sente. Lui non ti sente? No, negativo. Cavolo, vabbè, c'è da dire che io sono abbastanza in alto, tu per portatore, se c'è tuo figlio in casa, probabilmente sei un po' chiuso questo portatore, io non so dove ce l'hai e l'antenna in che direzione è ubicata. No, no, tu le prove e i confronti li possiamo fare quando sei in casa, vediamo in ricezione e trasmissione, mi dici cosa stai utilizzando e poi vediamo un pochettino di trovare qualche discussione, diciamo, che ti dia qualche miglioramento di prestazioni. Però signori, vi ripeto, vi devo lasciare, ciao a tutti, ciao Cristian, Mirko, Claudio, scusa, Gianni e Antonio, ciao a tutti, io faccio corretti, poi dopo mi guardo la partita. Ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao Robè, buona prosecuzione di serata. Per Cristian, vabbè, adesso sicuramente sei in barra mobile, sei sceso il segnale qua a Santiago 5, ordinate stazione ferroviaria di Sassari. E niente, dai, l'amico di Alghero lo sento più, non riesco a capirlo. Comunque, avanti Cristian. No, attenzione Cristian, senti Antonio. Ma mi tendi? Non mi hai ascoltato? Scappa che ti ha ascoltato, avanti! Lo stavo rispondendo all'amico della stazione. Capo, avanti Gianni Rubroffè. Io sto uscendo con un arringo, mi senti lì? Certo, mi si sente forte. Capo, avanti già che ti stava chiamando. Ehi Acri, dai, io ti sento più adesso, sicuramente è una zona negativa. Antonio sta uscendo con 30 watt, io sto uscendo con 3 watt e mezzo. Sì, le balle. Avanti, Cri. Antonio, avanti. Vabbè, Antonio. Ehi, Aggiami, avanti, mando una fotografia, ti mando. Mi te la sto mandando, me. Manda. Cristian l'ho perso, non riesco più a sentirlo. Qui te l'ho mandata. Ma dove? Su Motozappa? O su Facciabuco? Su Messenger te l'ho mandato, io non ce l'ho il tuo numero. Ciao tu. Ciao Mari. Ciao Gianni, c'è anche Cristian se mi stai ascoltando, ok? Ciao a tutti quanti, io faccio quelle tiri, faccio un piccolo tabacchetto che stai ascoltando. Ok, ciao Antonio, riprendi. Campa, sono Puni Mari. Ciao Marino, saluto le ricambiate qua dalle coordinate della stazione. Buona serata e buon proseguimento. Oh Cristian, mi ascolti? Ok, ciao Cristian, ben sentito, dai. Al prossimo, ciao già. Sempre il solito signore, 9, radio Super 5, la Nico un turno, 7920, ottava. Ok, Gianni, mi prendi per me quello che ti ciao ciao a tutti, ciao. Ciao, salutoni Marino, ce la risentiamo. Ciao a tutti, ciao grazie, ciao, riprendi Gianni, ciao. Ehi, dai, ciao Marino, buon corretti, dai, buona serata. Kappa, sicuramente il Cristian è entrato, è zona negativa per noi. Io non riesco più a sentirlo, Marino magari un po' nella zona un pochettino più bassa e riesce a arrivare il segnale, forse a me mi sentirà, ma io non riesco più a sentirlo. Non so che è arrivata a Bonotose, ma forse ha chiuso, non so. Attenzione Cristian, dammi un controllo, fammi una cortesia. E tu sei ben ascolto Cristian, mi stai ascoltando, eh? Veramente non arriva proprio. Gianni, ci sei ancora? Ehi, ho lasciato un po' di bianco. Non si sa mai che Cristian stava modulando, dai. Kappa kappa, dai. Hai detto che sono un vizioso, passo all'altro baracchino. Ho visto la foto di uno strumento, che cos'è? Come che era ben arrugliazzato. Ma ancora non bisogna attaccare la stufa, Antu. Avanti. Antu. Eccomi. Ma veramente tu non ci credi che sto uscendo con 3 volte e mezzo? Certo che ci credo. A parte che faccio nulla attaccato. No, adesso è normale. Com'è? Un po' meglio la radio, dai. Compressione un po' sentibile. E vabbè, quando attacchi sì, dai. Un grido via, saggio. Non 960, no, 9000 sarà giù. Te l'ho detto che c'ho il freno a mano, lo smitter. No, se no addios. Tanto più di quel tot non va, capito? Il ragazzo si ferma lì, non va avanti. Ma c'è qualcuno che ci sta chiamando, avanti! Non so. Adesso già va bene, là. Purtroppo. Qualche volta bisogna utilizzarlo, se no si guasta. Ma Cristian è in barabobile, lo ascolti, Antu? Negativo. Perché tu l'ascolti? Lui? Silenzio radio proprio. Ma lui è sicuramente in zona dove noi non... o ci vuole più potenza per superare l'ostacolo. Lui è in zona dove non riusciamo a tirarlo fuori, capito? Ehi, andiamo beh, dai. Io faccio i bagagli, dai. Ci sentiamo anche tu, dai. Sono entrato così all'improvviso, a gamba tesa, come si dice. Che era un po' che non accendevo il baracchino. Dai, salutoni a chi è in ascolto, a te, a tutta la ruota e tutte le orecchie pelose, come dice qualcuno, dai. Ci sentiamo all'improvviso come oggi, dai. Buona serata e niente, dai, alla prossima. Ciao già, ce la risentiamo. Dai. Accendi più spesso. Ehi, andavi, dai. Baci abbracci, buona serata e buonanotte, dai, alle prossime. Ciao, a dare più potenza con l'apparecchio. Andavi così, dai.